La prossima canzone è stata oggetto del festivalino che vinsi nel 2004 e sono lieto di riproporvela dopo tanti anni. E per me è una, sì, è una duplice emozione ricantarla, soprattutto su questo palco. È stato il mio primo trampolino di lancio, anche per me. La rondine di Mango, la dedico a tutti voi e alla mia famiglia. Grazie.